Prima edizione. Ed eccoci anche per cominciare questo mercoledì, prima di entrare nel vivo di quelli che sono i temi forti di questa giornata, vi faccio una domanda. Cosa avete visto al cinema quest'anno? Siete in linea con i film più visti? Beh, siamo a fine novembre, l'anno non è ancora finito, però lo è invece per la stagione cinematografica che tradizionalmente volta pagina e ricomincia l'anno con le attese uscite natalizie. Allora, già oggi verranno assegnati i cosiddetti biglietti d'oro dell'ANEC, che sono i film con più ingressi nella stagione cinematografica 2010-2011. I premi verranno consegnati alle giornate professionali di cinema a Sorrento e a vincere sono stati, vediamo un po' se indovinate. Devo tornare indietro, vero? È una missione suicida. Il ragazzo che è sopravvissuto, venuto a morire. Non siamo una banda. Noi siamo una squadra. Ma che dico una squadra? Noi siamo la squadra per antonomasia, i Charlatans. Sconfitti in finale per 4 edizioni consecutive del Memorial Giuseppe Gasparollo. Nel circuito ci chiamano gli Eterni Secondo. Ce l'ho solamente io. Solo Checco te lo poteva far vedere. È un'occasione unica che ti do fare. Allora, al mio tre adesso apri gli occhi. 1, 2, 3. Eh? Ma è un trullo? Sì. Un trullo in Brianza, Checco? Sì. Ma com'è possibile? Perché me l'ha lasciato mio nonno, che era di Albero Bello. Ah. Ed eccoli, li avrete riconosciuti sicuramente, sono Che bella giornata, la banda dei Babbi Natali, Harry Potter e i doni della morte. Parte 2 sono i film che abbiamo visto di più quest'anno. Tra poco ci aspettano le prime pagine dei quotidiani. Prima edizione. Ed ecco, innanzitutto colmiamo una lacuna. Questa mattina 9, GR24 non vi ho dato l'indice Nikkei, le borse asiatiche come stanno andando, e segno meno che trionfa questa mattina. Il borsa di Tokyo perse in questo istante lo 0,9%. Questo nonostante le rassicurazioni arrivate ieri sera dall'Eurogruppo, con le rassicurazioni anche del presidente del Consiglio italiano Monti a Bruxelles in veste di ministro dell'economia sul risanamento dei conti. Risanamento dei conti che è il tema d'apertura che domina sulle prime pagine dei quotidiani. Vi do subito una carrellata. Corriere della Sera: si andrà in pensione più tardi, pensioni di anzianità, avanza la stretta al Sole 24 Ore. Arriva la stretta sulle pensioni, La Repubblica: una manovra da 25 miliardi, La Stampa, Il Messaggero: pensioni, stretta sull'anzianità. Insomma, il tema è questo. Il governo che annuncerà le misure ufficialmente il 5 dicembre e che le ha anticipate ieri sera a Bruxelles sembra deciso. Il Corriere della Sera: non basteranno 40 anni di contributi per lasciare il lavoro, si va invece verso una patrimoniale leggera, manovra da 20 miliardi e l'Europa dice Italia sulla via giusta. Taglio di vitalizi dei parlamentari, scrive aggiunge il Sole 24 Ore, passaggio al contributivo dal gennaio 2012. Ed entra un po' più nel dettaglio il Sole 24 Ore, che parla di ipotesi di elevare da 40 a 41 o 43 anni gli anni di contribuzione. L'altro fronte, quello europeo, a centro pagina sul Sole 24 Ore, con l'Europa che studia il tandem fondo monetario BCE. Sarà potenziato il fondo Stati, ma le risorse potrebbero non bastare e questo è il problema. La Repubblica anche qui parla di oltre 40 anni di contributi e di un prestito per l'Italia, ma a centro pagina della Repubblica c'è un'altra notizia, un'intervista con il presidente della Consob che annuncia una nuova missione che potrebbe essere necessaria per la BCE. Vegas dice alla Repubblica: allarme banche, non c'è più liquidità, non circola più denaro, il rischio principale è che si diffonda il credit crunch. Rispetto a questo scenario, leggiamo dalla Repubblica, il fallimento di qualche banca diventa un rischio secondario. Se l'illiquidità del sistema porta al blocco dell'economia, allora non fallisce un singolo operatore, ma fallisce l'Italia. Un allarme preoccupante, quello riportato questa mattina dalla Repubblica. Il commento invece di Marcello Sorgi sulla Stampa è questo: il vento cambia per la casta. In mezzo a tutti questi provvedimenti ce ne sarebbe uno che riguarda anche i parlamentari, una stretta ai vitalizi con assegni soltanto dopo i 60 anni anche per i parlamentari. Si tratta sul ruolo della BCE, leggiamo a centropagina da Il Messaggero, secondo cui si va ormai verso il maxi prestito all'Italia. Questo è il tema centrale, ne parleremo anche noi più avanti a Prima Edizione, cercheremo di capire cosa esattamente è emerso ieri sera da Bruxelles e cosa sta esattamente pensando Mario Monti, anche se tutto per la verità, se queste sono per la verità solo indiscrezioni che però la trapelano e bisognerà aspettare il 5 dicembre. L'altro tema invece che trovate in grande evidenza su tutte le pagine dei quotidiani, con per lo più immagini, è quel che è accaduto a Teheran. Studenti iraniani assaltano l'ambasciata britannica, leggiamo in questo caso dal Corriere della Sera. Iran assalto all'ambasciata inglese e anche sulla Repubblica. Altre notizie da segnalare: la Repubblica, lacrime e polemiche sul suicidio assistito di Lucio Magri, notizia data ieri proprio dal quotidiano La Repubblica. Come dare un senso alla vita, esiste un diritto di morire, questo il commento. Altre segnalazioni questa mattina ancora invece da dalla Repubblica, dal Corriere della Sera, scusate, la RAI. Ieri vi annunciavamo il CDA RAI che avrebbe dovuto prendere decisioni. Il Corriere della Sera scrive questa mattina: la RAI vende terre e palazzi, taglia 7 sedi estere e pensa alle all news. Così sarebbe questa la strada verso cui sta andando la TV pubblica. E poi ancora la polemica sulla politica a Milano, il disagio di Milano, dov'è la città della svolta dopo le polemiche tra Pisapia e Boeri. Gian Giacomo Schiavi sul Corriere della Sera. Corriere della Sera che punta ancora l'attenzione anche domani sul vertice di Finmeccanica, i figli dei potenti assunti da Finmeccanica, e ancora il manager Borgogni che parla ai PM dei favori. E poi il rapporto ONU da Durban sulla Stampa, invece: il decennio di caldo record che fa paura, decima posizione tra gli anni più caldi della storia per il 2011, e così sta cambiando il clima. Clima, questione che sembra passare un po' in secondo piano, l'ambiente dimenticato, la crisi travolge anche l'accordo di Kyoto, scrive questa mattina il Corriere della Sera. Così le prime pagine dei quotidiani, avremo come sempre modo di approfondirle ancora poi con Alessandro Milan alle 7:20. Vi faccio sentire invece una pillola spizzicando dalla TV andata in onda ieri sera. Avrete letto di Patroni Griffi, neoministro, che ieri sui giornali diceva che, chiamato da Monti per fare ministro, lo ha scambiato per Crozza. E allora ieri sera a Ballarò Crozza ci ha scherzato. Certo che se davvero mi scambiano per Monti, io adesso mi vendico quasi quasi, io faccio uno scherzettino. Pronto? Sono Mario Monti. Posso parlare col Vaticano? Dovete pagare l'ICI. E questa era un'altra battuta per la verità di Mario Monti. Siamo forti, siamo una squadra. Ma in ogni caso, ieri sera Crozza se l'è presa con Monti e con i nuovi ministri. La Gazzetta dello Sport ve l'abbiamo già letta in apertura di Prima Edizione, vi ridò comunque ancora il titolo d'apertura: il pari più pazzo e divertente dell'anno, pandemonio pepatissimo, Juve di Ferro rimonta al Napoli e allunga in testa una partita da PlayStation, come definisce la Gazzetta dello Sport l'incontro di ieri sera al San Paolo. Voltiamo ancora pagina con Prima Edizione. Perché abbiamo parlato di cinema, abbiamo parlato anche di classifiche che già cominciano a tracciare un bilancio di queste 2011 e lo fa anche il web. Perché? Perché i motori di ricerca, anche questi, possono raccontarci molte cose, sono un punto di vista particolare per capire gusti, desideri e bisogni del cosiddetto popolo di internet, vero Maria Luisa Pezzali? Verissimo, buongiorno Anna, buongiorno agli ascoltatori. Che cosa abbiamo cercato di più in rete nel 2011? Che cosa raccontano di noi le chiavi di ricerca che usiamo di più? Sono le domande alle quali risponde ogni anno la classifica delle parole più cercate su Yahoo, classifica che verrà resa nota oggi. Noi siamo in grado di anticiparvela partendo da una conferma. Anche quest'anno la parola più cercata è Facebook, il principe dei social network, che conta ormai nel nostro paese 21 milioni di iscritti. Nel mondo, pensate, siamo ormai a quota 800 milioni. Ne parliamo con Matteo Failla, direttore editoriale di Yahoo Italia. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Che cosa ci racconta allora la classifica di quest'anno? Sì, si conferma effettivamente Facebook come parola più cercata, quindi 2010 e 2011 si confermano con queste due parole. Il dato di fatto è che comunque gli utenti utilizzano e cercano molto Facebook. Nelle parole più cercate in realtà non ci sono grandi sconvolgimenti rispetto allo scorso anno, entrano però verso le ultime posizioni, ma comunque in posizione rilevante, quelli che sono gli andamenti economici dell'Italia, che vengono cercati con Borsa Italiana in primis per vedere un attimo qual è l'andamento e soprattutto quali sono le perdite visto quest'ultimo periodo, e censimento 2011, perché comunque c'è stato un grande cercare in rete per tentare di capire effettivamente come compilarlo e per tutto quello che riguardava poi le scadenze. Lei ha citato censimento in ottava posizione e Borsa Italiana al nono posto. Nelle altre posizioni si confermano l'oroscopo, il meteo, è così? Esatto, sì. Alla fine sono servizi / passione degli italiani che vengono a cercare all'interno di Yahoo, punto meteo, oroscopo, giochi, programmi TV, poi Super Enalotto, le mappe, i tarocchi anche, che comunque sono in ultima posizione ma sono tra le parole più cercate sia nel 2010 che nel 2011. Per quanto riguarda le notizie dell'anno invece, che cosa ci può dire? Beh, in primis le dimissioni di Berlusconi. Lo scorso anno, nel 2010, il disastro della BP era al primo posto, ma quest'anno entrano le dimissioni di Berlusconi. A seguire sempre un tema legato comunque all'economia, quindi la crisi dell'Eurozona, e in terza posizione invece tutto quello che ha riguardato il terremoto in Giappone e Fukushima. Grazie a Matteo Failla per essere stato con noi. Grazie a voi, arrivederci. Prima edizione. Le inchieste di Radio 24. Italia in controluce. Restare o andar via. Luca e Gustav sono due ragazzi italiani che hanno visto molti coetanei lasciare l'Italia per mete come Berlino, Londra o Barcellona. Gustav vuole andare all'estero, Luca cerca di convincerlo a restare. In un documentario, Italy Love It or Leave It, mostrano pregi e difetti del nostro paese. Ce ne parla Nicola Accardo. Cari Luca e Gustav, volevo che i miei figli crescessero in un paese più affine ai miei valori e al mio pensare. Cari Luca e Gustav, ero stanco di un sistema universitario nepotistico e autoreferenziale. Dover accettare lavori mal pagati che ti obbligano a dover vivere con mamma e papà. Fare il genitore in Italia poi è un incubo. Le generazioni in Italia dovrebbero essere la classe dirigente. Ho lasciato l'Italia per amore. Luca è un critico cinematografico. Da 13 anni vive con il suo partner, l'altoatesino Gustav, corrispondente a Roma di una TV tedesca. A inizio anno ricevono la notifica di sfratto dal loro proprietario e così pensano di trasferirsi a Berlino. Ma prima di lasciare l'Italia gli dedicano un viaggio e un documentario, incontrano protagonisti positivi e negativi, cercano i motivi per partire, ma soprattutto quelli per restare. Per convincerlo a rimanere qui gli spiego che gli mancherebbero tutte quelle cose che sono un po' il simbolo del Made in Italy, quindi il caffè fatto con la moca, o la macchina, la Fiat, o Sofia Loren, Cinecittà, e lui invece vuole dimostrarmi che tutto questo passato glorioso ormai è solo una zavorra sterile, perché di fatto è in crisi ed è totalmente ormai legato a un passato che non c'è più, quindi mi porta tecnicamente a vedere i cassi integrati della Bialetti, quelli della Fiat, proprio per spiegarmi che in realtà appunto devo smettere di attaccarmi al passato con le unghie e coi denti, ma devo cominciare a guardare avanti. E quindi il viaggio comincia da Torino, poi andiamo a Milano dove incontriamo i supporters di Berlusconi, poi andiamo a Rimini alla ricerca del Latin Lover per scoprire che non ci sono più e che anzi Rimini è la città col più alto consumo di Viagra in Italia. Io credo che si abbia il dovere non di fuggire, ma di restare sul posto e di non mollare mai. Che fosse un paese più accogliente e più giusto. È nel sud Italia che il testardo Luca avrà la meglio su Gustav. Le parole di Andrea Camilleri, dei sindaci antimafia o ancora dei volontari che aiutano i lavoratori immigrati a Rosarno ricordano che c'è ancora un'Italia che lotta e che non va abbandonata. Gustav Hofer. C'è una storia che abbiamo girato in Sicilia con un testimone di giustizia che si chiama Ignazio Cutrò, che è un imprenditore che ha denunciato la mafia più volte, gli hanno bruciato i suoi macchinari, è stato completamente emarginato dalla comunità locale. Ho presentato questa storia a Luca per convincerlo di lasciare l'Italia. Invece, parlando con questo signore, con una passione incredibile, con un senso di responsabilità e un senso civile, ci ha fatto capire che bisogna proprio rimanere per combattere queste cose. Per ora è tutto, Italia in Controluce torna alle 13.30. Ed eccoci, prima edizione, grazie questa mattina a Maria Piera Ceci, ci trasferiamo a Bruxelles. Si è concluso poco prima di mezzanotte l'incontro dell'Eurogruppo che precede l'Ecofin di oggi e ha segnato il debutto in Europa di Mario Monti anche nel ruolo che era di Giulio Tremonti, vale a dire come ministro dell'economia. Molto bene, così seccamente come il suo stile ha risposto il presidente del Consiglio ai cronisti che gli chiedevano come fosse andato l'incontro. Fatto sta, cosa ne è emerso? Allora, il punto fondamentale, l'abbiamo visto anche dai quotidiani oggi in edicola, è un accordo per l'aumento del famoso fondo salva stati, accordo però solo di massima perché non si sono fatte cifre. Altra questione, dovrebbe intervenire anche la BCE, ma non potendolo fare direttamente, l'aiuto dovrebbe essere mediato dal Fondo Monetario Internazionale e abbiamo sentito nei giorni scorsi quanto la stampa internazionale si sia affrettata a fare subito i conti di quanto costerebbe aiutare l'Italia. Io saluto Paolo Madron, direttore di Lettera 43. Buongiorno. Buongiorno. Cominciamo da Bruxelles, i punti sono molti, ma innanzitutto un accordo ancora una volta di principio, quello di ieri sera senza cifre, o questa volta c'è sostanza in questo sì? Ma non si capisce bene questo fondo salva stati, sta diventando una sorta di entità sempre astratta. C'è una indicazione del ministro olandese di arrivare a 1.000 miliardi di euro, però poi c'è anche la smentita sulla cifra, si dice 500. Soldi che peraltro non si capisca bene dove si prenderanno. Soldi che non si capisce bene dove si prenderanno perché i paesi dei cosiddetti BRICS hanno detto che non interverranno. Credo che al di là del fondo salva stati poi il tema vero sia quello del ruolo della BCE, della capacità di intervento della BCE non diretto ma come hai detto tu prima mediato attraverso il fondo monetario. Qui si parla di aiuti all'Italia 600 miliardi che però lo stesso fondo monetario ha smentito, insomma mi sembra che siamo ancora in una nebulosa, nella nebbia. Sì. in questa nebbia però c'è un altro allarme che arriva perché la Repubblica questa mattina pubblica un'intervista al presidente della Consob che secondo cui la BCE dovrà affrettarsi ad intervenire anche su un altro punto perché Vegas dice c'è un allarme banche, non c'è più liquidità. È possibile? Su questo, sull'assenza di prosciugamento di liquidità delle banche, l'intervista di Vegas di oggi mette diciamo un timbro ufficiale, ma sono settimane che si parla della appunto difficoltà delle banche, che si parla di prestiti sempre della banca centrale, della durata di 3 anni, in modo tale da consentire una ripresa degli impieghi da parte delle banche. Credo che la situazione del sistema del credito sia veramente allarmante e che quindi occorra fare presto in Europa e dare alla BCE quel ruolo che attualmente non ha e non lo ha perché i tedeschi non vogliono. E quindi di poter essere un attore forte. Ecco, la domanda che comincia anche ad insinuarsi è anche se vale la pena salvare l'euro, perché al vertice di ieri sera c'era anche questa partita sotto sotto. Vale la pena? Chi conviene? Questa è una domanda che forse conviene a noi, non conviene ai tedeschi, tra le tante indiscrezioni di questi giorni. Si è detto anche che la Bundesbank ha ripreso a stampare marchi in gran segreto, oppure che appunto si tornerebbe ad accarezzare l'idea di un euro forte di serie A e un euro di serie B. E noi saremmo in serie B? Noi saremmo in serie B, sicuramente. Noi, se tu pensi che si parla di un intervento automatico della BCE quando i rendimenti sui titoli, sulle emissioni di titoli supera il 5%, noi saremo in permanente emergenza. Sì. Avete visto le aste ieri, insomma siamo quasi al 7,52, 7,58. Siamo sopra il 7. Sì, è quasi il tasso usura, il famoso tasso usura di cui parlare. E quindi è una situazione veramente... E quindi è a noi soprattutto grave. Che conviene salvare l'euro. C'è un altro fronte che è quello italiano sì. Per aprirlo però mi faccio dare una mano. Lunedì prossimo, ora tu pensa Giovanni, lunedì prossimo Monti ci comunicherà le misure economiche. Certo, guarda che io sono un po' sfigato, perché lunedì, Giova, è il mio compleanno e mi arriva una mazzata da 20 miliardi. No, perché avrei preferito più una cravatta, anche da 3 euro. L'avrete riconosciuto, sono le parole di Maurizio Crozza ieri sera a Ballarò. La verità, al di là dello scherzo, è che ci attesa per questo 5 dicembre una manovra da 20 miliardi, non basteranno 40 anni di contributi per andare in pensione. Però c'è ancora molto mistero su quello che Monti vuole fare. Sì, c'è molto mistero, soprattutto su quel provvedimento che fu sonoramente bocciato, non mi ricordo in quale versione della manovra del governo Berlusconi, e cioè ho sentito che si riparla ancora di blocco della rivalutazione delle pensioni per il 2012. Se vi ricordate fu un provvedimento che suscitò molto, molto scandalo, ho sentito che si parla anche di questo, oltre che di aumento a 43 anni per le pensioni di anzianità. Si parla di patrimoniale light e sulla patrimoniale anche qui è abbastanza nebbia, perché è chiaro a tutti che il PDL e Berlusconi in primis non la vuole. Si parla di ICI, insomma c'è anche un po' di mistero sull'entità della manovra, perché qualcuno dice 20, qualcun altro 20. Ma c'è mistero perché non si vuol far trapelare prima per non avere polemiche, o perché non c'è l'accordo coi partiti secondo te? Io penso non ci sia l'accordo ancora, soprattutto sul tema patrimoniale e anche sul tema pensioni. Come sapete bene, per esempio, il PD è spaccato e quindi si cerca, credo, di mediare fino all'ultimo. Lo sapremmo tra qualche giorno, il 5 appunto, però è lunedì prossimo e quindi quindi, però credo che così come si è visto anche in questi giorni c'è stato un intenso lavorio anche per nell'ultimo caso nella formazione dei viceministri, dei sottosegretari. Credo che Monti, al di là della facciata rassicurante, sia costretto ancora ad un faticoso, a volte estenuante, mediazione con i partiti, che sono quelli che poi lo devono sostenere, perché questo, il paradosso è che un governo tecnico ce lo possiamo che deve andare in Parlamento possiamo permettere un compromesso? E questa è la grossa domanda. Ci possiamo permettere un compromesso, perché tutto è sempre frutto di un compromesso, purché sia un compromesso alto. Ecco, non ci possiamo permettere un compromesso basso, mediocre. Questo sì. Io per esempio penso che sulla patrimoniale non avrei indugi, perché è un modo per recuperare. Ma ieri Berlusconi ha detto no, quindi in qualche modo Berlusconi ha detto no alla patrimoniale, no alla riforma della legge elettorale. Questo è un altro versante dove da Monti ci si aspetterebbe una riforma della legge elettorale, ma Berlusconi ha posto il veto, quindi come vedremo. Dicevi tu, insomma, a quale punto continua arriverà il compromesso? Esattamente, vediamo il 5, lunedì prossimo. Lunedì prossimo lo sapremo, speriamo. Sì. Grazie nel frattempo per essere stato con noi, Paolo Madron, direttore di Lettera 43. Buona giornata. A voi buona giornata, arrivederci. Prima edizione. Le 6:48 minuti, un anniversario importante si celebrerà oggi in molte città del mondo e anche in Italia. Allora, di cosa si tratta, Laura Bettini? Buongiorno Anna e buongiorno anche agli ascoltatori. Era proprio il 30 novembre, ma era il 1786 quando il Granducato di Toscana, primo in Europa, abolì la pena capitale. Per rimarcare questa data, questo anniversario, oggi più di 60 capitali e circa 1300 città di 81 paesi diversi nel mondo daranno vita a mobilitazioni, marce, sit-in, spettacoli, assemblee pubbliche, avranno prese di posizione ufficiali, partecipando così anche alla 8ª edizione della giornata mondiale Città per la Vita, e come simbolo del loro impegno illumineranno ad hoc un monumento della loro città. A Roma ovviamente sarà come sempre il Colosseo. Questo sarà l'atto finale però di una due giorni che è stata organizzata dalla comunità di Sant'Egidio, presente ormai in 85 paesi e ben nota attivista italiana contro la pena di morte, che ieri ha portato a Roma tra l'altro per il 6° congresso internazionale su No Justice Without Life, quindi non c'è giustizia senza vita, ha portato a Roma 20 ministri della giustizia provenienti da Europa, Asia, Africa e anche una delegazione di deputati e senatori dell'Illinois, l'ultimo stato americano ad aver abolito la pena capitale. Mario Marazziti, portavoce di Sant'Egidio, ha sottolineato così i successi del movimento contro la pena di morte nel corso di questo congresso. Fino al 1973 erano appena una ventina i paesi che avevano abolito la pena capitale, su circa 200. Dagli anni 90 c'è stata una accelerazione importante. Oggi siamo a 141 paesi nel mondo sul fronte di chi non usa più la pena di morte, per legge o di fatto. Ma, ha detto ancora Marazziti, 58 paesi mantengono la pena di morte, una ventina di questi nell'ultimo anno hanno inflitto pene capitali e per questo l'Italia vuol continuare ad essere in prima linea nella lotta per l'abolizione della pena di morte. Questo l'ha detto il ministro della giustizia Paola Severino. Perché? Perché, ha spiegato, è una tutela dei diritti civili e non è affatto una garanzia di sicurezza per i cittadini. È tutto, a te la linea. E grazie anche a Laura Bettini. Con Prima Edizione per oggi ci fermiamo qui, non si ferma come sempre l'informazione però di Radio 24, noi tra pochissimo già ci sentiamo con le notizie di GR24, grazie anche a Peter Bescapè che resta in regia, a Viola Bottoni, nel frattempo ancora una buona giornata da Anna Migliorati.